corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Manu, come fa amico mio? Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia. La tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese, di baci all'eschimese. Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. A me mi piace dire, a me mi piace anche se non si dice. Però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amo gie col mare mosso, il caffè col vino rosso. Quando è il primo settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu. No me gustas tú. Più del mar Mediterraneo, me gustas tú. Una domenica allo stadio, me gustas tú. Conto tutto il necessario, me gustas tú. Sì, me gustas tutto, me gustas tú. Perché tu sei come Roma, qualunque strada porta da te. Se mi portare a te. 11 della noce in Managua, Nicaragua. Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto. Sì così tanto, sì così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando. Mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi. Che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia. Anche se vado via mi prendi ovunque un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu, no me gustas tu. Più del mar Mediterraneo, me gustas tu. Una domenica allo stadio, me gustas tu. Tutto il resto è secondario, me gustas tu. Sì, me gustas tu, tutto me gustas tu. Manu, è vita intensa. La la la la la la la la. È il nostro grande cuore. La la la la la la la. Che passa con la calle. La la la la la la la. Io dico 1, 2, 3, 4. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu, no me gustas tu. Più di Genova e Bilbao, me gustas tu. Di un concerto che è sold out, me gustas tu. Più di Alfa e Manu Chao, me gustas tu. Sì, me gustas tu, no me gustas tu.